Faccio una premessa, oggi Sandra non c'è, quindi la sostituisco, ma non sono bravo come lei, quindi abbiate un po' di pazienza. Grazie. So we're grateful to Roberto, for having volunteered to translate today instead of Sandra. Now, today we shall continue with our series of Dhamma talks, and Dhamma talks that are meant to build a good foundation for your meditation practice. Quindi questa sera iniziamo con un altro dei Dhamma talk, che una serie di Dhamma talk appunto che sono vi diamo appunto per costruire una buona fondazione per la vostra meditazione. Now let us start with a statement and for you to find out what this is, under which name this particular movement comes. The 20th century movement dedicated to describing the structures of experience as they present themselves to consciousness without recourse to theory, deduction, or assumption from other disciplines such as the natural sciences. Quindi iniziamo con una frase. It was a statement. Yeah, 20th century movement. Diciamo con una frase, vediamo che cosa significa per voi, di questo movimento del XX secolo che praticamente ha prende come suo concetto di base analizzare la coscienza senza far ricorso a teorie di altre didattiche di altre discipline scientifiche. Sì. So this particular movement is known under which name? Who knows? E questo particolare movimento è conosciuto con quale nome? Chi lo sa? Yes. Vipassana. Ah, not so bad. And Vipassana is a 20th century movement, or does it, or is it a movement that is much older? Il Vipassana è un movimento del XX secolo, è molto più antico. Chiede. I think it's the name of it's from that time, 20th century. Yes, but I think it's the actual sources are from much further. Much further back. Mm-hmm. Yes. Dice che praticamente diciamo come suoi risultati diciamo si vedono nel XX secolo, però chiaramente le origini, che chiaramente del buddismo sono molto molto più antiche. Now, what Gregor is saying is absolutely correct. And however, there is a certain movement that was propagated in the 23rd century, and that has a particular name. Sì, quello che dice Gregor è corretto, però ciononostante diciamo c'è un particolare movimento che si è propagato nel XX secolo e appunto chiedo se qualcuno sa il suo nome. To help you, it's a discipline of philosophy. Per aiutarvi, è una disciplina filosofica. So who knows? Chi lo sa? No one knows. Well, esistenzialismo. Pardon me? Esistenzialismo. Esistenzialismo. We're getting closer. Stiamo vicino. Yes. Psychology. Psychology. Well, this particular movement then very much influenced psychology. and it's been absorbed by modern psychology and also by other disciplines. Cioè questo movimento ha influenzato la psicologia e ha anche influenzato altre discipline moderne. Well, no, not to strain you too much, this is known as phenomenology. Quindi per non allungare troppo. Does it ring a bell now? Yes. Avete capito che si chiama la fenomenologia? Yeah, right. And certainly so, this phenomenology is indeed under this name. It's a form or a school of modern philosophy, and the modern founder of this phenomenology is Edmund Husserl, a German philosopher. Quindi diciamo appunto la fenomenologia è un dipartimento, un ramo diciamo della filosofia. Il suo fondatore è Edmund Husserl. And it is because of the similarity between Vipassana meditation and this phenomenology that I've taken this as a topic for our Dhamma talk today. Quindi proprio perché c'è questa similitudine tra il Vipassana e questa fenomenologia che l'ho preso come argomento di questa sera. Now, another way of defining this phenomenology is that it is a branch of philosophy that deals with what you see, with what you hear, with what you feel, etc., in contrast to what may actually be real or true about the world. Quindi diciamo questo ramo della filosofia, appunto, prende in considerazione quello che veramente diciamo noi facciamo esperienza del mondo, di quello che noi vediamo, sentiamo, odoriamo, senza diciamo considerare se sia veramente, se è vero o no, diciamo questa esperienza che facciamo. Yeah. And so, one interesting aspect of this phenomenology is that certainly we, or that it sets aside all assumptions and certain beliefs about the world. So it's just a bare observation of what's going on. Quindi quello che è interessante di questa fenomenologia è che appunto diciamo è come seziona tutto quello che noi percepiamo del mondo e diciamo togliendo tutto quello che è credo, assunzione, diciamo, tutte quelle teorie che c'erano prima, diciamo, è solamente la pura osservazione. Now, Edmund Husserl is said to be the modern or founder of modern day phenomenology, and or however, his his way of observing the world eventually led him to become an eternalist. Quindi, sebbene, sorry, I understand. Husserl was the founder of this phenomenology. Okay. Allora, siccome Husserl è stato il fondatore, diciamo, di questa fenomenologia. E anche se è stato fondatore, comunque poi è diventato un esistenzialista. And one of Husserl's major critics was Martin Heidegger, and he did accept part of phenomenology but change it to some extent, and he himself eventually became a nihilist. Quindi uno dei suoi critici molto conosciuto è stato Heidegger, un altro appunto filosofo, che accettò parte diciamo della sua teoria, della fenomenologia, ma poi diventò un nihilista. And suddenly then Jean-Paul Sartre, a well-known French writer and philosopher, also followed this phenomenology and eventually became a materialist or even a Marxist. Quindi anche un altro famoso, Jean-Paul Sartre, che è stato appunto un filosofo e scrittore, ha seguito in parte appunto le sue teorie, ma infine poi lui è diventato un materialista e anche un marxista. Now, the Venerable Sayadaw Panita Biwamsa of Burma, when he speaks of Vipassana meditation, he describes it at times as a form of self-research. So we undertake a study into ourselves, into our own body and mind. Quindi Sayadaw Panita della Birmania ha detto più volte che praticamente Vipassana è come appunto uno studio che noi facciamo dentro noi stessi, into ourselves, right? Into our body and mind. Nel nostro corpo e nella nostra mente. Now, the greatest phenomenologist was no doubt who? Il grande fenomenologista è conosciuto. Chi è stato? Oh. Who's that? The Buddha. The Buddha himself. There you go. And so now, when we look at what happened to these different philosophers, starting with Husserl, Heidegger, Jean-Paul Sartre, and so we then compare what happened to the Buddha, then we see, unfortunately, they lost the true path. And so there, studies in phenomenology unfortunately did not lead to the realization of the unconditioned, namely Nibbana. Quindi quando compariamo questi studiosi, appunto Sartre, con il Buddha, vediamo che anche loro hanno fatto un approfondimento, però a un certo punto hanno perso il cammino e non hanno raggiunto il Nibbana. Now, at this point, for general understanding, a brief excursion into philosophy and Abhidhamma. So the Buddhist Abhidhamma, where does it fit in? And so, when we look at certain philosophy, then we can distinguish two major schools or directions, and one being phenomenology and the other one being ontology. Quindi facendo una piccola comparazione fra l'Abhidhamma e la filosofia, vediamo che nella filosofia possono essere trovate due filoni, ci sono due filoni, che è appunto la fenomenologia e l'ontologia. And so the phenomenology deals with the world of internal and external phenomena, as described earlier on. Quindi la fenomenologia si occupa di ciò che internal and external phenomena. Dei fenomeni interni ed esterni, come abbiamo detto prima. And so on the other hand, we have ontology, which is nothing other than metaphysics or the inquiry into the existence and nature of an essence or ultimate principle. L'altra parte è l'ontologia o metafisica, che è appunto una forma di studio che dà come assunzione che ci sia una forma di verità fondamentale, di fondamento. Now, when it comes to the Buddha's Abhidhamma, so the higher teachings, teachings about the mind, teachings about the various types of consciousness, teachings on the various types of mental factors. So where does this Abhidhamma belong? when it comes to or in the framework of our two schools of philosophy. E quindi sta chiedendo a Bidhamma in quale con la sua struttura, con il suo modo di vedere, di approcciare la realtà, in quale di queste due scuole filosofiche si avvicina di più. So does the Abhidhamma belong more to the branch of phenomenology, or does it belong more to metaphysics? Quindi chiede se l'Abhidhamma appartiene più al ramo della fenomenologia o quello a quella della metafisica. So what do you think? The phenomenologia. Ah, yes. For the most part, yes, except for one state. Per la più parte sì, ma tranne una parte, tranne una cosa. So what's this one? No, Jenny says the right thing. Namely, Nibbana. Sì, Nibbana. And so, the reason for this being, that the ordinary phenomena that we that are dealt with in the Abhidhamma, so various mental states, or consciousness, various manifestations of matter, all of these are considered to be conditioned reality, whereas Nibbana is the one element which is certainly said to be the unconditioned. It's not conditioned by anicca, dukkha and anatta, by impermanence and unsatisfactoriness and non-self. Quindi tutto quello che osserviamo, appunto, con Vipassana, le varie fenomeni che ci accadono, materiali, immateriali, va bene, appartengono alla fenomenologia, ma il Nibbana no, perché non appartiene né reame delle tre delle verità fondamentali, della impermanenza, del dolore e dell'assenza di sé. Now, some schools of philosophy, or at least some thoughts that have been proposed in philosophy, especially Western philosophy, tend to be somewhat speculative. Alcune delle filosofie, dei modi di studio occidentali, tendono a essere molto speculativi. Whereas in the case of the Abhidhamma, it is more descriptive of what is actually occurring in the body and in the mind and certainly in the world around us. Invece nell'Abhidhamma è più una descrizione su quello che succede nella mente, nel corpo e nel mondo intorno a noi. And so that's that makes a big difference between Abhidhamma, the essence of the Abhidhamma, and the essence of part of Western philosophy. Quindi questo fa la grande differenza tra l'essenza dell'Abhidhamma e l'essenza delle filosofie occidentali. Now, when describing the phenomena that occur, the Abhidhamma uses two approaches, and one is analysis and the other one is synthesis. Quindi uno dei il modo in cui Abhidhamma approccia i fenomeni è uno l'analisi e l'altro la sintesi. Now, when you are observing the predominant objects that occur in the body and in the mind from moment to moment to moment, and you're trying to find out what is what, then this comes under analysis. Quindi quando osservate il vostro corpo e cercate di capire che cosa di vedere che cosa succede momento dopo momento, questo è l'analisi praticamente. So you're getting to know the different objects that come up. you gradually get to know the different physical formations as well as the different mental formations. E quindi gradualmente cominciate a capire la differenza tra le varie formazioni sia fisiche che mentali. Now, the second approach that is being used in the Abhidhamma is synthesis, which means that objects are seen as being connected, one object being the cause and another object being the effect or result. E quindi nella sintesi invece si vede in qualche modo la connessione tra i vari effetti nella materia o nella mente, cioè si vede appunto appunto la connessione gli effetti o i risultati, diciamo. Now, the findings that or the things that the Buddha spoke about over 2,500 years ago are all based on a very careful observation of what certainly is going on in his body and his certain mind and in the world. Quindi quello che ha fatto il Buddha più di 2000 anni fa è stata proprio questa osservazione di cosa avviene, diciamo, dentro il corpo, nella mente. And so, the findings of the Buddha are available or accessible not only to the Buddha but also to anyone who is willing to follow his instructions, such as instructions on Satipatthana, at least to some extent. Quindi diciamo quello che il Buddha ha scoperto, ha fatto, non se l'è diciamo tenuto per lui, ma è in qualche modo è disponibile per tutti quanti, almeno per chi vuole seguire le sue, diciamo, i suoi insegnamenti e il Satipatthana. And therefore one of the virtues of the Dhamma is come and see for yourself. Don't believe blindly, check it out yourself. And then you will find out, and then you will understand. Quindi diciamo una delle cose che dice l'Abhidhamma è quello di vedere da te stesso con calma, controlla e poi diciamo capirai, crederai da te stesso. Now, to give you an illustration at first, before we go into the practicalities in connection with phenomenology. Prima diciamo di andare nella praticità appunto della fenomenologia. No. Darò un esempio. So, a patient comes and sees a physician and then describes to the physician that he or she is suffering from an ordinary or is suffering from a cold, and the symptoms are a running nose, a slight headache and sneezing. And while giving this description to the physician, the patient keeps insisting, "Sir, this surely must be a case of swine influenza." Quindi diciamo appunto da questo esempio di un paziente che va dal dottore e dicendogli appunto questi sintomi che è raffreddato, che starnutisce, che c'ha un poco di febbre. E insiste, diciamo, quel dottore che sicuramente questi sono sintomi della influenza suina. Now, in the field of medicine, it is important that a patient give an accurate description of the symptoms, of his or her symptoms to the doctor. And so it's important that the patient refrains from coming up with or mixing in his or her own judgments, evaluations, beliefs, and so on and so forth. Quindi è molto importante nel campo della medicina che il paziente dica al dottore quali sono i suoi sintomi reali e non li mischi, diciamo, con quelle che sono le sue credenze, quelle che sono le sue teorie e altre cose, diciamo. And so, phenomenology has also played an important, has and still is playing an important role in modern medicine. Quindi la fenomenologia ha giocato un ruolo e sta ancora e gioca ancora un ruolo molto importante nella medicina moderna. And as certainly we've seen earlier on and certainly suggested by Gregor, it's certainly being used in psychology and also in sociology and other fields. E come prima aveva suggerito Gregor, appunto è stata usata in, e viene usata, diciamo, in, in discipline appunto come la psicologia, la sociologia. Yeah, right. Now, back to our meditation practice. Namely, the case of a swaying movement. So we sit in meditation and suddenly then the body starts swaying. Allora, torniamo alla, alla pratica della meditazione. Immaginiamo appunto un, durante una seduta di meditazione che il corpo comincia a ondeggiare. Now, at first sight, one might consider the swaying movement as insignificant, not even worth observing. Quindi all'inizio uno può prendere questo movimento di ondeggiamento come qualcosa di insignificante che quindi non serve osservarlo. Now, as the swaying movement is occurring again and again, finally, as our meditator starts paying attention to it. Quindi quando invece questo movimento si ripete più e più volte, il meditatore comincia a prestargli attenzione. And suddenly then, after 1 hour, the meditator realizes that there are slight differences between one swaying movement and the next swaying movement. E quindi il nostro meditatore comincia a accorgersi che c'è una piccola differenza tra un ondeggiamento e l'altro. And so, eventually the meditator will realize that some swaying movements are segmented and others are not. E quindi si accorge che appunto alcuni di questi movimenti sono segmentati ed altri invece no. And so some swaying movements have many segments, whereas others have only very few segments. E alcuni di questi movimenti sono molto segmentati ed altri invece sono appena pochi segmenti. And some swaying movements that are forceful, painful, while as others are not. Alcuni di questi movimenti sono forzati, dolorosi, mentre altri no, non hanno queste caratteristiche. And some swaying movements occur in a gentle manner and of their own accord. E quindi alcuni di questi movimenti avvengono in maniera gentile, nel loro modo. And so, the same thing you will have noticed by now when observing the rising falling movement of the abdomen, that it's not always the same. Rising falling movement of the abdomen does not come in just one standard version. E quindi la stessa cosa, penso a questo punto avrete capito con il vostro movimento dell'addome, il salire e scendere dell'addome, che non viene sempre nello stesso modo, ma c'è spesso una differenza. Now, yesterday's talk was about the basic instructions as given in the Satipatthana Sutta, instructions on how to be mindful, And Satna, today what we shall explore is different ways of different observational as well as descriptive categories. Quindi quello che abbiamo parlato ieri è stato appunto delle indicazioni date che sono date nel Satipatthana Sutta. Quello che invece facciamo oggi è la description. No, observational and descriptive categories. Le categorie di osservazione e di descrizione. No. When we observe physical formations, then we might find that in some objects hardness is the predominant quality, whereas at other times softness could be the predominant quality. Quindi quando osserviamo degli oggetti materiali possiamo accorgerci che delle volte la durezza è la sensazione principale, mentre in altri è la morbidezza. And certainly, at times an object can be rather solid, and certainly an object might be rough, but it might also be smooth. E in altri casi possiamo vedere che un oggetto potrebbe essere solido, o potrebbe essere un po' grossolano, rozzo, o potrebbe essere liscio. Now, when observing some predominant physical phenomenon, we can do this under the angle or the point of view of the temperature. So, how is our object behaving in terms of temperature? Are we experiencing heat there, or do we experience cold, or warmth, or coolness? Quindi c'è un'altra angolazione, anche un punto di vista su cui possiamo vedere gli oggetti, è quello della temperatura. Quello che stiamo sperimentando è calore, è freddo, è temperato. And coolness. And freschezza. Now, then again, we can experience an object under yet another aspect, namely, is our object under observation? Is it moving in any way? Is there some motion going on? Or maybe not? Quindi un altro modo ancora di vederlo è quello del movimento, l'oggetto che stiamo osservando si sta muovendo oppure no? So in the case of the rising falling movement of the abdomen, usually there is a movement there. However, not always. Sometimes the rising falling may get so stiff and so tense and tight that it barely moves. Quindi chiaramente se stiamo osservando il salire e scendere dell'addome vediamo che c'è appunto un movimento, ma non sempre, perché delle volte può diventare l'addome così duro che praticamente non c'è quasi movimento. And then again there could be various bodily objects or formations that maybe are flowing or oozing or trickling. E in altri casi ci possono essere degli oggetti che invece fluiscono, oppure altri che sono un po' come vischiosi, ed altri invece che sono trickling, penso trickling. Trickling, yes. In drops, right? In gocce praticamente. In gocce. Gocciolanti. Gocciolanti. Now, when it comes to our sitting posture in the meditation practice, is it always perfectly upright like the Buddha statue behind us? E quando, diciamo, se veniamo adesso invece al fatto della postura, e il nostro corpo così retto e stabile come quello del Buddha, come la statua dietro di noi. Is it always like this, every sitting from start to finish? E così no. Il vostro corpo nelle vostre sedute dall'inizio alla fine? No. So obviously not. And so then in terms of posture, what kind of aspects come to your mind? What kind of postures have you experienced? E quindi, diciamo, apart from the upright, the perfectly upright posture. Quindi diciamo in termini di posture, quale postura nelle vostre sedute avete sperimentato a parte quella eretta, dritta? Domande. Easy question. What's that? So, oh my God. Yes, indeed. One's head is leaning forwards, and then the entire upper body might be slouching. Quindi sì, veramente il corpo spesso si può piegare, si può inclinare in avanti oppure si può piegare. And so, any other positions that the body might assume? Bending. Bending, yes, bending, leaning, leaning to one side or another. Quindi, or what else? Quindi piegarsi da un lato, diciamo, e chiedere quale altra. Oh, like that, with the head, head pulled, catapulting backwards. Yes, indeed, that happens. And then, you might have noticed at times, even though our sitting posture is upright, but it may be rather stiff. And then, so it's stiff and upright, and on other occasions it can be upright and relaxed. So there's a big difference there. Quindi sempre per la posizione eretta, anche se eretta a volte può essere molto rigida. Invece altre volte sempre eretta invece può essere invece molto rilassata, tranquilla. Now, just as a point for general knowledge, one of the Burmese meditation teachers and disciple, long-term disciple of the Venerable Sadhu Pandita, namely Sadhu Usasana, has once remarked that when watching a group of meditators in a meditation hall, simply by looking how they are, or looking or observing how the meditator is sitting, by looking at his or her posture, one can make an educated guess at where that person's practice is at. Quindi una volta Sadhu Usasana, Sadhu Usasana, che è un allievo a lungo termine di Sadhu Pandita in Birmania, ha fatto questo tipo di osservazione, cioè che quando si vedono i meditanti sedere in una sala di meditazione, dalla semplice osservazione di come siedono si può vedere il livello della loro pratica. And so all of this is to say that once in a while in your meditation practice, do pay attention to the posture that is currently taking place. Quindi questo per dire, di tanto in tanto, date un'occhiata alla vostra postura che vi viene naturale, durante le vostre sedute. Now, we mentioned already pains, and there's a great variety of pains around, and some that we have not mentioned yet are, for instance, a poking pain or a pounding pain. Quindi parlando dei dolori, ci sono alcuni appunto che non abbiamo ancora menzionato. E, poking, allora, dolori martellanti. Oh. And pounding pain. Oh, this is pounding, martellante. Oh. Yeah. provoking is colpire. Ah, sì, colpenti. Or colpenti. Però, diciamo, molto vicino. Right. Now, when it comes to pains, we can also differentiate them in terms of their intensity. So whether a pain is excruciating, or whether a pain is sharp, or maybe acute or dull. Quindi diciamo in termini di tipi di dolore, di intensità, di forma, diciamo, ci sono appunto dolori che possono essere excruciating, intense, acute. Beh, possono essere molto forti, diciamo, excruciating. Yeah. Altri che sono più acuti, altri che sono più più sordi, che si sentono, diciamo, un po' di meno, stanno nel sottofondo. There was another one. Okay, now when it comes to a piece of music or to a documentary, then the sequence of it will matter a great deal. Likewise, the sequence of major events in a sitting session or a walking session will matter a great deal. Quindi se parliamo di un pezzo musicale, la sequenza, diciamo, della musica, di com'è, è molto importante. E nello stesso modo nella meditazione sono molto importanti le sequenze tra, appunto, di quello che succede nella meditazione camminata e nella meditazione seduta. And sometimes, by taking a look at the sequence of major events, we can then determine what is happening in our meditation practice. E quindi a volte, appunto, vedendo la sequenza di quello che sta, diciamo, della sequenza dei vari eventi che accadono, diciamo, al nostro corpo e alla nostra mente, è possibile determinare lo stato della nostra pratica. So, at the beginning of the sitting, our experiences may still be not that developed yet, and then as the sitting goes on and our mental faculties become sharper and sharper, then eventually we reach a certain peak where our observation is at its best. Quindi nel corso della nostra seduta può esserci, diciamo, varie fasi, come all'inizio, che magari uno non è molto molto pronto, molto allerta a capire quello che succede, poi piano piano, diciamo, come questa concentrazione, questa sale, uno riesce a essere sempre più attento alle varie eventi, alla fine raggiunge un picco questa attenzione. No. At certain times, some other phenomenon comes into the foreground, namely the so-called pairs of opposites. And then we might find over a shorter or longer period of time that at first we experience a lot of heaviness of the body, and then later on things change and there's a lot of lightness of the body. And so this then forms a pair of opposites. Quindi, diciamo, altre volte invece ci capita di fare l'esperienza di opposti, di paio di opposti, diciamo, di esperienze come la pesantezza per un certo tempo e poi viene invece la leggerezza. E questo appunto forma l'esperienza, diciamo, degli opposti. Or at times we might be experiencing a certain amount of hardness in the buttocks. We then observe this hardness, and then after some time the hardness turns into its opposite, namely softness. Quindi delle volte noi osserviamo, per esempio, nei glutei una certa durezza, e poi con un po' di tempo questa diventa invece una morbidezza. Or it may happen that we sit in meditation and our body tends to be extremely restless. So plenty of movements, bodily movements take place at first, and then gradually as time goes on or time goes by, then all of these bodily movements calm down, and then there is stillness of the body. With this, we have another pair of opposites, namely between movements of the body versus stillness of the body. Quindi in altre volte invece ci capita che c'è una forte movimento nel corpo, e questo movimento che ci viene dentro piano piano magari si può calmare, e il corpo piano piano diventa molto stabile, calmo. E quindi in questo momento abbiamo fatto l'esperienza della agitazione contro la calma. Now, just like there are pairs of opposites occurring on a bodily level, so too pairs of opposites suddenly tend to arise on a mental level. Quindi lo stesso, quello che succede nel corpo, a livello del corpo, che sperimentiamo questi paio di opposti, allo stesso modo succede anche a livello mentale. And so, could you think of one such pair of opposites, of mental states? Potete pensare a qualcuno di queste coppie, di opposti, di stati mentali? Sadness and joy. Yes, sadness and joy. Quindi tristezza e gioia. Yes, it's correct. Anything else? Common experiences. Greed and aversion. That would be one, yes. Or to express it differently, liking and disliking. Mm-hmm. It's a very common one. Yes, Gregor? Guilt and aggression. Guilt and? Aggression. Aggression is ascertaining. Aggression. Oh, guilt and aggression. Yeah. Quindi una coppia potrebbe essere sentimento di guilty, senso di colpa e aggressione. Aggressione. Mm. And suddenly then another one would be patience versus impatience. Un'altra potrebbe essere pazienza contro impazienza. And in the end there are so many. No. E alla fine ce ne sono moltissimi. No. Again for general knowledge, the mind seems to be learning a lot from these pairs of opposites. And observing one extreme, and then soon after this also experiencing the other extreme, and then seeing the contrast, seeing the difference, and suddenly then learning from this, and let's say in the case of liking and disliking, greed and hatred, that these both are not satisfactory, and with this the mind then transcends this pair of opposites. Questo è un punto molto importante, in quanto la mente appunto da questi opposti sembra che impari molto, cioè nel senso vedere un funzionamento, un eccesso, vedere l'altro eccesso e capire che sono magari qualcosa che va superato, bisogna andare oltre. No. When we observe an object, let's say some physical object like a ball of hardness somewhere in the body, then at first it certainly may seem just like rather solid ball of hardness, and there are no major changes there. However, when we observe really carefully, and certainly this may also involve practicing for a longer period of time, we might find that at the core of the object there is maybe a different sensation. Quindi per esempio osservando una parte, una bolla di durezza nel nostro corpo all'inizio, possiamo vedere solo questa durezza, certo magari richiede una certa pratica, però poi Vedendo bene all'interno di questa durezza possiamo scoprire che c'è una parte interna differente di morbidezza. Or it could be the other way round, that the core of the object is hard, whereas periphery is wrapped up in softness. E quindi diciamo invece può esserci anche il contrario, che all'interno c'è un nocciolo duro e intorno è avvolto come da qualcosa di morbido. And so do pay attention to fine details like the composition of an object, whether it's the same degree of hardness or same degree of tightness for the entire object or not. Quindi diciamo fate attenzione bene ai vari oggetti, se c'è la stessa quantità di durezza o di morbidezza durante tutta quanta la durata della sessione di meditazione. Now, quite fascinating at certain times maybe to observe objects under the aspect of time. And certainly here it certainly may happen that some of the objects that we observe are overlapping in time. In other words, while, let's say, this is one object here, and certainly starting here and ending here. So while this first object is going on, a second object arises, and then there's a certain overlap between the first and second object. Quindi un altro aspetto interessante sono l'accavallamento delle esperienze. Mentre stiamo sperimentando una sensazione, stiamo vedendo la sua durata, a un certo punto un'altra si sovrappone nello stesso tempo, quindi ci sono queste due sensazioni. And so when objects are overlapping, then just know this particular phenomenon. Or else, it's with a further development in one's practice, it may happen that objects occur in a different way, namely in a linear fashion. So only after one object has disappeared, that the next object arises. Now lasts for a certain period of time and then disappears, and then only does this a third object arise, etc., etc. Quindi un altro modo appunto in cui vengono questi, appunto come sorgono questi oggetti è quello lineare, che bisogna anche osservare, che appunto c'è un oggetto, questo dura per un certo periodo, poi a un certo punto scompare e subito dopo ne sorge un altro, che lo stesso ha una sua durata, quindi questo è un modo appunto lineare. No. Again, from a time point of view, certain objects may, or there may be a certain synchronicity of events. So, two or three objects are happening at the same time. Un altro modo è quello, della sincronicità, quando più eventi avvengono nello stesso momento. Or else, to check for yourselves whether your observing mind is really in sync, so to speak, with the object observed. E quindi questa è un'altra cosa che potete osservare da voi stessi e vedere se la vostra mente è in sincronia con l'oggetto che state osservando. And certainly when observing some predominant object, there is certainly yet another very simple and self-evident aspect, namely to pay attention to whether an object is long-lived, so maybe a pain could last for the entire sitting, or whether a pain or some other object is maybe just short-lived or very short-lived. Quindi un altro aspetto che potete osservare durante le sedute è se un oggetto ha una vita corta, ha una vita lunga, ha una vita un pochettino più corta, ha una vita cortissima. Now, maybe those aspects for in regard to time and Satnavin, you know, there's still many other points that we could certainly pay attention to, and one is certainly as follows, namely, when we start our meditation practice, let's say a pain arises, and so, you know, then we observe it, and it continues to, you know, remain the same. So it seems rather static. And Satnavin, maybe a couple of days into the retreat, so a few days later, we might observe a similar pain, or maybe the same pain, but now we find that it keeps suddenly changing all the time. So now the process character of this suddenly pain becomes much more predominant. Quindi diciamo quello che abbiamo detto prima è per quanto riguardava il tempo. Adesso si può osservare anche, diciamo, se possiamo vedere anche un altro aspetto, diciamo, se per esempio un dolore che abbiamo da una, diciamo, una zona del corpo è statico, rimane sempre lì anche durante varie, diciamo, sedute, e poi dopo un po' di giorni, after some days, the same pain, then starts changing, and it has a process character at that point. E quindi diciamo dopo qualche giorno questa comincia a cambiare, quindi c'è una caratteristica, un processo che va avanti. And so at first, during the first and second day of the retreat, we can't even imagine that this pain will start changing later on. And so it's certain rather, the static aspect is most predominant, and it's only later on that our view of the same pain then starts to change. Quindi dopo due giorni di ritiro, vedendo appunto un dolore, non potremmo mai pensare che questo possa mai cambiare come lo vediamo adesso. Invece poi dopo, con il passare del tempo, vediamo che comincia a esserci una trasformazione, un cambiamento. Now, most meditators assume that certainly each and every object has a location. So, when we describe our experiences, we say, okay, there is certainly this heat occurring in, let's say, my left ankle. Quindi, un'altra diciamo esperienza che facciamo, ci sembra che i dolori, gli oggetti abbiano sempre lo stesso posto, diciamo come per esempio un dolore nella caviglia sinistra. And this is a false or a relative assumption, because at a later point in the practice, it's common among meditators to experience that heat, but with no more reference in terms of location. A meditator at that point can no longer locate the experience. So the sensation is there, but you can't place it anymore. Quindi diciamo questa assunzione che il posto sia sempre lo stesso, diciamo che non è proprio vera, in quanto col passare del tempo, dopo dei giorni di pratica, del tempo di pratica, si vede che a un certo punto questa sensazione c'è ancora, però non è possibile proprio identificarla in un posto. And so this tooling is something that we could pay attention to over the course of time. E quindi queste cose che abbiamo detto sono appunto cose da poter osservare nel corso del tempo. Now, again, to help you with the observation and description of your meditation experiences, at times we might be experience a multitude of objects occurring in a quick succession, one after another, and then at other times we may be experiencing very few objects. E quindi diciamo qualcosa appunto che vi può aiutare sia per la osservazione che per la descrizione. Diciamo, a volte può capitare che parecchi oggetti sorgono tutti nello stesso momento, e altre volte invece che solamente pochi oggetti sorgono. Now, also what you could pay attention to is your entanglement in an object of observation versus keeping a certain distance to the object and observing the object with detachment. Quindi un'altra cosa che potete prestare attenzione quando osservate gli oggetti è se ci siete invischiati dentro, oppure se invece avete una certa distanza, li guardate un po' dall'esterno. And so, from the point of view of a beginning meditator, at first, when thoughts arise, then we tend to get entangled in the content of the thoughts, of our thoughts. E quindi all'inizio, specialmente appunto con i nuovi meditatori, si tende a rimanere un po' invischiati appunto nei pensieri, diciamo quando sorgono dei pensieri, rimanere invischiati nel contenuto di questi pensieri. And it is only later on, with a few more days of practice or so, that suddenly we realize we do not need to get entangled in the content of our thoughts. A thought is just a thought, it's another mental object, and that's all. E quindi col passare del tempo, dei giorni, possiamo cominciare a renderci conto che non c'è bisogno di rimanere invischiati nel contenuto di questi pensieri. And suddenly then, also along this line, aspect of distance, there may be a differing distance between the objects. So at times, objects occur very closely one after another, and then at other times, objects are much more sparse in their occurrence. Un'altra cosa appunto su come diciamo questi oggetti sorgono, a volte sono molto attaccati, ravvicinati uno all'altro, altre volte invece sono molto radi. No, the Buddha himself has certainly given us three categories of observing, or three categories that might be helpful for the observation of predominant objects. Quindi il Buddha ci ha dato tre categorie che possiamo identificare su gli oggetti predominanti. The first one is to observe and know the specific characteristic of an object. E la prima è quella di osservare la caratteristica specifica di un oggetto. So, to give you an example, the rising movement of the abdomen occurs, and suddenly we then carefully observe it, and suddenly then we realize or understand there's a lot of hardness in this rising movement. So, the hardness then would be the specific characteristic. Quindi, per darvi un esempio, supponiamo appunto che c'è il movimento del salire dell'addome, e mentre sta salendo noi sperimentiamo una forte durezza, una rigidità, e questa è la specificità, la caratteristica specifica di questo oggetto. And certainly at a later point we observe a different rising movement, and this time around softness is the predominant quality, hence the softness is the specific characteristic of the object. E quindi al contrario, più tardi, diciamo in questo movimento di sollevamento dell'addome, possiamo sperimentare una sensazione di morbidezza, e in quel momento è quella la specifica caratteristica da osservare. No. For the first few days of our practice during a retreat, meditators tend to observe the specific characteristics of objects. Quindi per i primi giorni del ritiro i meditatori tendono a osservare le caratteristiche specifiche degli oggetti. This, however, changes after a while, and suddenly the meditators become more aware of what is known as the conditioned characteristic of certain phenomena, sankhata, lakkhana, impadi. Quindi in un secondo tempo invece i meditatori cominciano a osservarne, può capitare che cominciano a osservarle le conditioned characteristic. Caratteristiche incondizionate, condizionate. Yes. And what this term refers to is very simple. Now that each object has a beginning phase, so your genesis. Each object has an occurrence phase, and oftentimes during this phase it changes. And then each object has an ending phase, a dissolution phase. Quindi diciamo che ogni oggetto appunto ha un inizio, una parte iniziale, una parte diciamo di evidenza e poi una parte nella quale scompare. Now there are certain implications here. Usually when we start out a retreat, and we observe the rising and falling movement of the abdomen, we tend to see only the middle of it and not quite yet the beginning of it, and maybe only after a while the ending of the object. C'è qualcosa di caratteristico che può succedere normalmente appunto all'inizio della meditazione dei principianti di meditazione, e che appunto uno vede in queste fasi, di queste fasi del sorgere, durare e scomparire, vede principalmente la fase centrale, quella del perdurare. And then only after some time do we see more frequently the middle of an object and then the ending of the object. Sorry, before was the beginning. No, before the middle. Before the middle. The middle, and then the development, as the development goes on, then meditators see mostly middle and end, and then as the practice develops even further, we tend to see the whole thing, beginning, middle and end. Quindi diciamo, piano piano che la pratica si sviluppa, allora a un certo punto cominceremo a vedere la parte media e la fine. Andando avanti ancora un po', cominciamo a vedere tutto quanto il processo, inizio, medio e fine. So, this itself you can take as an aspect to pay attention to and just check for yourselves what is it, which part of an object, which part or which parts of an object are predominant and are discernible. E quindi questo lo potete sperimentare da voi stessi. Guardate che cosa potete vedere, quale parte dell'oggetto, in quale fase potete riuscire a osservare. Now, the Buddha then went on to describe yet another characteristic, and this is known as the universal characteristic of the phenomena. E il Buddha è andato avanti appunto a descrivere un'altra caratteristica, è quella delle caratteristiche universali dei fenomeni. And so what is meant here is that all predominant formations are experienced in the light of impermanence, in the light of or subject to impermanence, subject to unsatisfactoriness and subject to absence of a self. Quindi appunto quello che questi oggetti possono essere osservati è nella luce della impermanenza, nella luce della insoddisfacenza e nella luce dell'assenza di sé. And so whatever the predominant object may be, we see it either as impermanent or unsatisfactory, etc. e qualsiasi oggetto che noi osserviamo lo possiamo vedere come impermanente o come insoddisfacente, eccetera. And so when you think of these three characteristics, namely first the specific characteristic, then the condition characteristic, and then the universal characteristic, it's going from the specific to more general qualities. Quindi quando osservate questi oggetti dalle specifiche caratteristiche alle the second was the caratteristiche condizionate, alla fine alle caratteristiche universali, cioè come un cambiamento dallo specifico al più generale. No. One more point that I would like to share with you is the following. And to explain first with a story. A meditator comes to an interview and then reports something like this. My rising falling is okay, and sitting is okay, I have no major pains, walking is okay. And so, this kind of a report, how would you characterize it? Quindi diciamo, you go ahead. Per descrivervi appunto un qualcosa con una storia, facciamo conto appunto che un meditatore viene e comincia a dire: ma io non ho nessun particolare problema nella meditazione seduta, nella meditazione camminata, va tutto bene. E voi che ne pensereste di questo meditatore? And sometimes the meditator might add the sentence: I have no problems. E quindi potrebbe anche aggiungere: ma non c'ho problemi, nessun problema. So that's not the point. So this kind of an observation and certain description, would you can characterize it as a very specific description of what's going on, or a rather general description of what's going on? E quindi questa come la definireste voi? Una descrizione specifica o più una descrizione generale di che cosa sta succedendo? So? Obviously, a rather general description. And so, when it comes to our Satipatthana practice, namely our work of mindfully observing whatever predominant object comes up, please always go for the specific or observation of specific qualities, and then also give a very specific description of what actually happened. E quindi quando appunto veniamo alla la descrizione di quello che è specificato nel Satipatthana, della pratica del Satipatthana, per favore guardate che cosa avviene, diciamo, specificatamente negli oggetti predominanti. Some people are great at generalizing new things. And so there is a value to this, no doubt, but when it comes to our meditation practice, we really need to train the mind in observing really carefully and suddenly describing equally precisely. Quindi diciamo, alcuni meditatori sono bravissimi nel generalizzare, però vi prego, cercate invece di essere specifici, di venire proprio alla specificità di quello che sta succedendo, di quello degli oggetti, di quello che vi succede. Now, the rationale here, or behind this is, at first, your experiences will be somewhat coarse, and later on in the practice, you won't believe how refined your physical and mental experiences are going to get. And so, if you don't train yourselves from an early point onwards to observe really carefully, to be really specific in your observation and certain description, then later on, when things become really refined, you will miss certain, you might miss the main point. Quindi diciamo all'inizio, quando gli oggetti sono molto grossolani, se voi non siete specifici e cominciate a vedere esattamente che cosa succede, poi nella quando ci sono appunto fasi successive, che gli oggetti cominciano a essere molto raffinati, molto più delicati, e allora poi voi potreste perdere molto, diciamo, del punto, diciamo, della pratica. Now, a number of Sutna points Sutna remain to be explained, and we'll do this Sutna during a forthcoming Dhamma talk. And that, let me conclude by wishing may all of you become expert observers and also describers of the reality that is taking place within your body and your mind, and gradually you become more and more skilled at this, and eventually may the mindfulness practice lead you to the realization of Nirvana. Quindi rimangono ancora alcuni punti da spiegare su questo soggetto, ma questo sarà per l'argomento, diciamo, di un Dharma Talk successivo. Per adesso, diciamo, lasciatemi concludere il Dharma Talk di questa sera augurandovi che voi possiate diventare sempre più attenti, specifici, bravi, diciamo, nell'osservare gli oggetti, nell'osservazione. Observation and e la descrizione, diciamo, degli oggetti, e vi possa condurre eventualmente alla realizzazione del Nibbana. Okay. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu.